Purtroppo sì, si sta abbassando l'età in cui si consumano droghe, anche mescolandole assieme, ed è proprio per questo che credo che sia aumentata la consapevolezza e la nostra volontà di agire proprio sui temi della prevenzione e della riduzione del danno, in maniera particolare della prevenzione, con questa idea di Area 15, che è un luogo proprio non connotato a livello cittadino, da aprire anche al di sotto dei 18 anni, per cercare davvero di cominciare ad avere un punto in cui ci si può rivolgere per avere informazioni, per avere counseling, per avere insomma cominciare a capire quanto si rischia assumendo delle droghe di qualsiasi tipo esse siano, proprio perché siamo partiti da un'analisi però del cambiamento del consumo effettivamente. Perché dovrebbe andare qualcuno ad Area 15? Perché magari è curioso, perché magari vuole informarsi, perché magari, come spesso vediamo, invece forse ha già cominciato ad utilizzare qualche sostanza, non è ancora nella fase di dipendenza, ma comincia anche a capire che ha qualche problema, qualche problematicità. Ecco, Area 15 si pone proprio come un luogo privo di stigma, privo di connotazione, al suo servizio, e noi crediamo anche al servizio delle famiglie, perché ovviamente il dramma di chi poi comincia ad assumere dipendenza è anche un dramma spesso delle famiglie, e quindi faremo pubblicità a questo luogo sapendo che lì ci si può venire in grande riservatezza, in grande tranquillità, a parlare con persone competenti, psicologi, educatori, che cercheranno davvero di aiutare ad aumentare la consapevolezza dei rischi che si corrono ad andare, diciamo, verso la strada dell'assunzione di droghe. È un consumo che non è necessariamente legato al disagio? No, abbiamo visto che è un consumo che non è più, ormai è trasversale, è un consumo che si fa in casa, spesso attraversa tutte le classi, diciamo, dai poveri ai ricchi, anche perché si è abbassato molto la possibilità di comprare cocaina sul mercato a prezzi molto bassi rispetto al passato. Il disagio emerge quando comincia a essere dipendente, quindi quando poi ti trovi in strada, ed è per quello che abbiamo rafforzato, una delle parti del progetto importante è il rafforzamento dell'unità mobile, soprattutto in zona universitaria, Piazza Verdi e dintorni, con più uscite settimanali, perché lì sei già, diciamo, in strada e il consumo diventa conclamato, ma appunto non è più legato al disagio, è qualcosa che comincia ad attraversare trasversalmente la società, e credo che ci debba anche interrogare evidentemente su perché succede. Assessore, una risposta anche alle preoccupanti numero di morti che abbiamo visto in giro di mesi? Certamente sì, naturalmente noi svolgevamo già questi due assi di prevenzione e di riduzione del danno, ma non c'è dubbio che le morti degli ultimi mesi hanno lanciato un grande campanello d'allarme che abbiamo voluto affrontare da subito con decisione, aumentando le risorse in grande sinergia con l'università e con l'azienda sanitaria, perché una delle caratteristiche di questo progetto che lanciamo è proprio l'idea di un'alleanza. La vorremmo fare anche col terzo settore, perché non si può affrontare un tema del genere pensando di essere da soli. Tutte le istituzioni, tutta la comunità bolognese deve capire che c'è davvero un aumento del consumo di queste sostanze, che spesso è anche sotterraneo, come dicevamo prima. Chi consuma in casa si fa fatica a capire come intercettarlo, ed è per questo che quel campanello d'allarme, la punta, diciamo, dell'iceberg rappresentata dalle morti, ci ha fatto davvero agire con decisione su questo ambito.